Prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas. Il nostro viaggio nelle Caritas vicariali oggi ci porta nel vicariato di Este, dove da poco più di un anno è stato aperto, come in quasi tutti i vicariati della diocesi, un centro di ascolto della povertà e delle risorse. Il coordinatore per Este è Fabio Perin, che ha il telefono con noi. Buongiorno Fabio. Buongiorno a voi. Dunque, un anno di esperienza anche per voi, buona parte appunto dei CDAX, questa è la sigla in acronimo del vostro sportello. Raccontaci però, Fabio, cosa c'era prima di questa istituzione? Beh, praticamente prima di questa istituzione c'erano le Caritas, le semplici Caritas, ovvero quelle che distribuiscono gli alimenti divise per parrocchie, però mancava proprio uno sportello di ascolto in Este, presente a Montagnano, Monselice, mancava proprio ad Este. E quindi, proprio per iniziativa della diocesi, in primis Don Luca Facco, è stata proposto l'apertura. Precedentemente sono stati fatti i corsi, quindi di durata di trimestrale, e l'apertura di un nuovo centro di ascolto in Este. La sede attualmente si trova in via del Pilastro 48, via Pilastro 48, nella parrocchia del Pilastro. Ecco, diciamo subito quali sono gli orari, i giorni di apertura, così diamo qualche informazione pratica. Sì. E allora, gli orari sono il primo mercoledì del mese dalle 16.30 alle 18.30 e il terzo sabato del mese dalle 9.30 alle 11.30. Voi appunto sparsi nelle varie Caritas parrocchiali, molti saranno rimasti, molti immagino anche in questi corsi di formazione si saranno anche aggiunti. Sì, si sono aggiunti. Devo dire per la verità che abbiamo avuto un assestamento, diciamo, no? Rispetto alle iniziali. Siamo partiti con 20 persone e adesso siamo in 11, ma questo assestamento è dovuto ovviamente a anche diversi impegni che alcuni volontari avevano e hanno trovato poi nel corso dell'attività, e quindi si sono magari per il momento si sono un attimo tolti dall'impegno del volontariato, ma si sono aggiunte altre persone, diciamo che sono rimasti e continuano a rimanere quelli che sono anche più fortemente convinti del centro, quindi diciamo che più che i numeri contano, ecco, la volontà e l'impegno, quindi diciamo che questi 11 ci sono. Sono persone che comunque ci sono e lavorano, ecco, per il centro, sentono il volontariato come proprio un'attività molto importante per loro. Ecco, sentivamo anche nel nostro viaggio nelle altre zone, in altri centri che abbiamo già interpellato, che ovviamente quando si è poi all'inizio, immagino anche per voi un anno fa, la novità magari non è neanche così facile da far conoscere. Poi ad un anno di distanza cosa si può dire? Ma si può dire che ormai siamo una realtà che comunque le istituzioni conoscono e che diciamo con il quale collaboriamo, il comune in primis, poi gli uffici immigrazione, il centro per l'impiego, le USL, gli assistenti sociali, le varie parrocchie. Ecco, quindi diventiamo anche noi parte di una rete di relazioni che, diciamo, tutto serve per l'aiuto a queste persone che si rivolgono a noi, che spesso sono persone che non hanno proprio nulla, che sono un po' allo sbando, ecco, e quando arrivano da noi, noi abbiamo questo effetto, questa funzione di filtro e possiamo ovviamente per primo ascoltarli, vuole dare un piccolo contributo e anche allo stesso tempo indirizzarli verso quella che è i loro bisogni specifici, insomma, quindi siamo di supporto e direi molto importante. Abbiamo verificato già con una novantina di ascolti dall'inizio dell'apertura ad oggi, e quindi 90 persone ai quali corrispondono poi circa 300-400 persone, perché sono 90 famiglie, ecco. La situazione appunto è quella di 90 famiglie che sono appunto nella vostra zona, nel vicariato. Le difficoltà maggiori tra queste 90, insomma, provando a fare a fette grosse delle statistiche, quali sono le necessità maggiori che riscontrate? Le necessità maggiori sono quelle che poi abbiamo visto anche come realtà e anche nella diocesi di Padova, ovvero in primis abbiamo la situazione economica dovuta al pagamento delle bollette, insomma. Allo stesso tempo abbiamo anche il problema del lavoro molto sentito. Ovviamente qualcuno di loro cerca, diciamo, in qualche maniera cercheremo un lavoro per poi sopperire a questa mancanza, quindi non è, diciamo, unicamente un desiderio di appoggiarsi a un'assistenza costante, ma proprio la ricerca anche di diventare in qualche maniera autonomi. Quindi il lavoro tentativo, come necessità di sopperire alle mancanze economiche, insomma, al pagamento di queste bollette, insomma. Chiaro, è una catena che poi diventa negativa in un senso e poi diventa positiva quando questo lavoro si riesce a trovare. Persone di queste 90 che tornano periodicamente, o c'è qualcuno che magari non è più tornato e dovrebbe essere una buona notizia? Diciamo che non ogni settimana, non ogni mese, però diciamo che e sostanzialmente tendono a tornare le persone. E noi abbiamo cominciato anche una collaborazione dal giugno del 2014 con lo sportello del Fondo Straordinario di Solidarietà, che si trova presso il Centro per l'Impiego. E ha fatto l'attività da giugno dell'anno scorso a gennaio di quest'anno. E quindi noi veicoliamo anche quelle che sono gli ascolti e anche li indirizziamo verso il Centro per l'Impiego, poi per ottenere appunto un'assistenza anche per una ricerca di lavoro attraverso questo fondo. E diciamo che circa possiamo dire che statisticamente un 20-25% delle persone che sono passate da noi poi sono state assorbite, diciamo, in qualche maniera sono state veicolate al Fondo Straordinario, in cui hanno trovato un'occupazione per 4-6 mesi a seconda appunto dell'attività che hanno svolto presso il centro. Allora, prima di salutarci, Fabio, ricordiamo la sede e gli orari di apertura del vostro centro di ascolto a Est. Allora, la sede è via Pilastro 48. Gli orari di apertura mercoledì, il primo mercoledì del mese dalle 16.30 alle 18.30, e il terzo sabato del mese dalle 9.30 alle 11.30. Era Fabio Perin, coordinatore del Centro di Ascolto della Povertà e delle Risorse del Vicariato di Est. Grazie e auguri per ogni cosa. Grazie a voi e buona giornata. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.